Vuoi firmare i tuoi contratti e documenti in modo sicuro e da qualsiasi postazione? Usa la firma digitale di Aruba. È l'equivalente di una firma autografa di fronte ad un notaio. Ha quindi pieno valore legale. Attivala adesso su aruba.it. La rosa purpurea di Franco D'Assisi. Eccoci qua come ogni sabato a raccontarvi tutto il cinema che c'è qui alla Rosa Purpurea. Un saluto da Franco D'Assisi. L'ora di cinema comincia settimana con parecchie nuove uscite in sala, qualcosa di interessante. Anche questa settimana c'è, soprattutto arriva e torna, anzi, nelle sale italiane l'attore che ha dominato la scorsa stagione, Pierfrancesco Favino, vincitore tanto del Nastro d'Argento quanto del Davide Donatello con due film diversi, e qui in sala con il suo nuovo film, del quale anche produttore, coproduttore, Padre Nostro, passato alla Mostra del Cinema di Venezia. Parleremo con lui, con Pier Francesco Favino, che sarà qui con noi fra poco in una nostra intervista. Poi abbiamo una coppia di registi italiani, sapete, come i Coen, eccetera, no? Le coppie di fratelli del cinema si arricchiscono di una coppia giovane, i fratelli Miyakawa, che nonostante il cognome giapponese sono italianissimi, e hanno portato a Torino lo scorso autunno un film che finalmente arriva nelle sale, che si intitola Easy Living, molto molto interessante. Anche loro saranno ospiti di questa puntata della Rosa Purpurea, nella quale come sempre giocheremo insieme con il nostro DVD Game e parleremo degli altri film in uscita. Ce n'è uno che è partito subito bene, diciamo benino, al botteghino, ma comunque primo in classifica nel primo giorno di programmazione, che è Il giorno sbagliato, che ci riporta in sala e sul grande schermo un redivivo Russell Crowe abbastanza oversize, ma come dire, piuttosto fisico in questo film. Cominciamo subito però con un altro film che arriva dalla Mostra del Cinema di Venezia. Lo firma il regista colombiano Ciro Guerra, si intitola Waiting for the Barbarians. Lei è uno schifoso aguzzino. Abbiamo le nostre procedure, è ora di andare. Lei ha tradito complottando con il nemico. Fuori da qui! Voglio quella gente fuori di qui! Porremo fine a tutti i disordini battendo il nemico. E chiuderemo presto la questione. E questo è un po' il clima del film, che certo il trailer un pochino enfatizza. Il film invece è fatto di grandi spazi, intanto CinemaScope, quindi grandissimo schermo, grandi dimensioni, grandi spazi nel deserto, fotografia straordinaria, tempi e ritmi dilatati, quasi si sente il calore di un deserto imprecisato, nel quale un funzionario mite, una persona per bene, denominato Il Magistrato, interpretato da Mark Rylance, a mio modo di vedere, nel ruolo della vita in questo film, diciamo presidia più che altro una postazione di frontiera di questa sorta di fortezza bastiani che è lì, che confina, che guarda verso il deserto, dove invece si aggirano appena fuori nomadi, popolazioni nomadi locali, nelle quali questo avamposto vive in una certa armonia, una situazione dove il tempo sembra non passare mai, ma dove conflittualità non ce n'è. In questo posto arriva a un certo punto il colonnello Joel, interpretato da Johnny Depp, un po' steampunk, con questi occhialini scuri fatti un po' in maniera postmoderna. È un funzionario di polizia molto duro, che ritiene che negli interrogatori bisogna usare la pressione, come la chiama lui, ma capiremo che di tortura si tratta, e che individua in maniera assolutamente arbitraria questi nomadi che stanno fuori con il nemico, un nemico che non c'è in realtà, che non c'è bisogno forse neanche di individuare, ma del quale il funzionario Joel vuole sbarazzarsi. E a un certo punto arriverà anche a dar manforte all'aguzzino, di cui sentivate parlare all'inizio Mark Rylance, anche Robert Pattinson, giovane funzionario di polizia che però un po' fa carriera, un po' annoiato, va sulle orme del suo superiore. Insomma, questo Waiting for the Barbarians, aspettando i barbari, ci interroga subito su chi siano davvero i barbari, chi vive nomade lì fuori e cerca di avere i suoi giri, il suo bestiame, il suo raccolto, quello che serve per campare, o chi invece vive rinchiuso dentro la fortezza e non si accontenta del quieto vivere, ma vuole a tutti i costi sterminare l'avversario. Noi siamo in collegamento con Boris Sollazzo. Ciao Boris. Buongiorno Franco, buongiorno a tutti gli ascoltatori. Come forse avrei capito, a me Waiting for the Barbarians è piaciuto proprio. L'ho trovato un film grande, un film di chi vuol fare cinema con una certa, come dire, una certa propensione ai grandi spazi, alle grandi dimensioni del cinema. E vuoi il deserto, forse, che ti portano subito alla mente capolavori come Lawrence d'Arabia, piuttosto che come Il tè nel deserto. Però mi sembra che Ciro Guerra governi piuttosto bene questa situazione, dove forse un po' la critica si è, come dire, si è detta non troppo soddisfatta, a mio modo di vedere, però non comprendendo che il ritmo di questo film è esattamente l'anima di questo film. Sono completamente d'accordo con te, credo che sia un film davvero straordinario, è un peccato che il Covid l'abbia fatto aspettare un anno per la distribuzione. È straordinario perché Ciro Guerra magari è poco conosciuto, è il suo primo film in lingua inglese, ma è andato ben due volte a giocarsi il miglior film straniero agli Oscar con due film colombiani molto belli. Qui esce fuori dalla sua comfort zone, che era il racconto dei sentimenti, anche se in maniera dura, ruvida, per affrontare la storia. La storia con la S maiuscola, ma la storia nelle sue icone, nella sua ricerca di archetipi che poi definiscono il senso del bene e del male, sostanzialmente. Qui c'è un imperialismo, chissà, forse britannico, che colonizza un deserto, che sottopone dei nomadi a una dominazione. C'è un magistrato, Mark Rylance, che sono d'accordo con te, nel ruolo della vita, insieme a quello che gli ha portato Oscar col Ponte delle Spie e insieme all'incontro con Steven Spielberg. Questo con Ciro Guerra è un incontro fondamentale. Guerra ci mette il resto, insieme al deserto, che è questo posto che delocalizza completamente il racconto, perché il racconto non vuole raccontare una storia qualunque, vuole raccontare il potere, vuole raccontare la megalomania, vuole raccontare la repressione. Piccola aggiunta, il film è tratto da una splendida novella di Coetzee, il Nobel della letteratura del 2003, che si chiamava appunto Aspettando i barbari. Coetzee, di origini polacche, quindi sa bene cosa vuol dire la barbarie di chi reprime, ovvero i nazisti, ma è anche un afrikaner, quindi sa benissimo che cos'è la barbarie di chi la esercita, perché molti della sua casta in Sudafrica lo hanno fatto. Lì ci mette tutto questo suo background, la novella è bellissima e te la consiglio, il film pure. Waiting for the Barbarians al cinema, La viabilità, e poi fra poco un altro film, forse il film della settimana per qualità e spessore, si intitola Undine, lo firma Christian Petzold, fra poco. Blumatica, il software scelto dalle aziende per la sicurezza dei lavoratori. Blumatica.it vi presenta La rosa purpurea. Era lei? Devo andare adesso. Se mi lasci dovrò ucciderti. Hai detto che mi avresti amata per sempre. E questo mi ha resa felice. Più felice di quanto sia mai stata in vita mia. E avete sentito il clima del film Undine, con cui apriamo la seconda parte della Rosa Purpurea. Il film arriva in sala dalla Germania, da Christian Petzold, che lo firma, con Paola Beer, Franz Rogowski e Marian Zare, insieme a Jakob Maschens, sono i quattro principali protagonisti. Particolarmente citiamo Paola Beer, perché questo film ha vinto a Berlino l'Orso d'Argento per la migliore attrice all'ultimo Festival di Berlino e il premio della critica internazionale al film. Quindi un film che arriva con tutto il pedigree del caso, una storia che prende le mosse da un personaggio mitologico della mitologia nordica, quello appunto di Undine, Ondina, che appunto, come succede in questo film che Petzold attualizza, deve cercare di capire dove sta l'amore, sostanzialmente, e soprattutto ha una vendicatività piuttosto accentuata, visto che, come avete sentito, visto che il fidanzato le dice, sostanzialmente le fa capire di avere un'altra, le dice: io fra mezz'ora sono qui, se quando torno tu non ci sei e non mi dici che mi ami per sempre come mi hai detto la prima volta, ti devo uccidere. Ed è una premessa, come dire, che ci porta dentro un clima piuttosto teso all'interno del film. Undine lavora presso un importante museo di Berlino e da lì lì, come dire, guarda il mondo. Quando però, dopo aver lanciato l'anatema sul suo fidanzato, su Johannes, che l'ha appena lasciata, incontra il sommozzatore Christophe e se ne innamora, va un po' in confusione, non capisce più se vendicarsi, se amare, quale deve essere la sua strada. Boris, Boris Sollazzo, un film che ci conferma la caratura anche estetica di un regista capace di raccontare una storia con le immagini, che dovrebbe essere, come dire, il percorso principale del cinema, ma non sempre così. Ma Petzold lo avevamo amato per La donna dello scrittore ed è un regista straordinario. Quello che forse ci stupisce in quest'Undine è che è un film della maturità nel senso più profondo del termine, sembra divertente poterlo dire di un autore come lui, però qui non c'è solo cinema d'autore, c'è anche melodramma di altissimo livello, c'è anche intrattenimento, ci sono i sottotesti, ma c'è anche il testo diretto. È un film che può essere popolare nel suo cuore, nel cuore di quel sentimento vissuto in maniera così estrema, ed essere mente d'autore nella cifra stilistica, nella sceneggiatura, nella scrittura, nel modo con cui fa giocare le immagini. Quel museo, avevamo parlato prima in Waiting for the Barbarians di quanto è importante il deserto come location, questo museo è ancora più fondamentale, questo oggetto inanimato apparentemente, perché racconta l'evoluzione urbanistica di Berlino, e noi vediamo costruire e decostruirsi un sentimento parallelamente a quella Berlino che aveva delle paludi attorno a sé, che si ricostruisce, che muore e rinasce, un po' come Undine. Petzold abbandona tra virgolette la sua musa Nina Hoss per questa Paola Berg, che è pazzesca fisicamente, interpretativamente, ha una presenza scenica incredibile, così come il coprotagonista maschile, il secondo uomo, il terzo incomodo, come lo vogliamo chiamare, che ha qualcosa di Phoenix Rogowski per quanto è carismatico e bello. Undine è uno dei più bei film, secondo me, degli ultimi anni, ed è una lezione di cinema vera e propria, una lezione di scrittura per immagini, e d'altronde lo fa un maestro come Petzold, di cui veramente forse non dovremmo perdere neanche un film. È uno di quei registi che non ne ha mai sbagliato uno, in particolare se riesce a entrare nella sua grammatica. E Boris Sollazzo, rimani con noi dopo averci raccontato Undine, che è assolutamente promosso, perché fra poco dobbiamo parlare di un altro film molto molto fisico che si intitola Il giorno sbagliato. Prima ascolteremo però un po' di interviste. Francesco Favino arriva fra poco alla Rosa Purpurea, prima giochiamo insieme perché è arrivato il momento di farvi ascoltare la prima traccia del film misterioso di oggi. Voglio convincerla che sono fatta per andare in onda, signor Hales. Credo che sarei un acquisto fenomenale per il suo network. Potrei tirarti fuori da lì e portarti in prima linea. Una straordinaria storia di donne, media e potere nell'epoca del Me Too, assolutamente centrale, con tre bionde storiche del cinema contemporaneo. Se avete già indovinato di che film si tratta, scriveteci il titolo e il vostro indirizzo alla Rosa Purpurea @radio24.it. Ci sono due Blu-ray che vi attendono, fra poco vi facciamo ascoltare un'altra traccia. Guarda Rosetta. Serve qualcosa? Insegno tennis qui al club. Si chiama Camilla, è una milanese. Viene qua tutti i mesi e vende medicine. Mio fratello lui. Elvis. Lui che fa qua? Sta aspettando di passare il confine. Cerca di andare in Francia. Lui è Elvis, il nostro amico. E questo è Easy Living, il film di cui vogliamo parlarvi adesso, un film presentato al Festival del Cinema di Torino lo scorso novembre. Poi anche questo film ha avuto un po' di problemi ovviamente di uscita per via del Covid, e arriva in un momento molto importante della stagione, insomma la fine di settembre, in piena alta stagione cinematografica. Easy Living dei fratelli Miyakawa, che come dicevo in apertura, al di là del nome che tradisce origini anche giapponesi, sono assolutamente italianissimi, Orso e Peter Miyakawa. Una storia semplice, potremmo dire. Siamo sul confine italo-francese francese, dalle parti di Ventimiglia, dove un giovane e avvenente maestro di tennis americano seduce signore sui 50 anni dopo aver insegnato loro a giocare a tennis, ma soprattutto nasconde un'anima da pittore. Un'altra protagonista centrale è Camilla, contrabbandiera di medicinali e alcol, e suo fratello 14enne Brando. I tre in qualche modo uniranno le loro storie, le loro vite, e cercheranno di aiutare Elvis, un ragazzo molto bello, molto prestante, sempre vestito con sgargianti camicie hawaiane, un migrante che è lì alla frontiera di Ventimiglia a cercare il modo per passare dall'altra parte in Francia. E una delle cose belle di questo film, che è assolutamente da vedere e da promuovere, è proprio la capacità dei fratelli Miyakawa di raccontare una storia che è un tema fondante della nostra polemica politica, anche contemporanea, quella dei migranti, con una leggerezza, un tocco, una mancanza di piagnisteo, diciamo così, ma una vicinanza però all'obiettivo che vogliono raggiungere, che è davvero straordinaria. Si potrebbe parlare di grande maturità, pur nella freschezza e nell'ingenuità in certi momenti, di questo film che scorre via veloce, appunto come il sole che bacia la costa, l'istmo di terra che divide l'Italia dalla Francia, dalla costa azzurra. E allora noi abbiamo intervistato i fratelli Miyakawa proprio al Festival di Torino, e vi proponiamo questa intervista che parte proprio da qui. Cioè, come nasce un film con una tematica così forte ma trattato in questa maniera così leggera? In questi anni noi abbiamo visto molto spesso, in questi anni carichi comunque di conflitti ideologici, di come i film che trattano l'argomento dell'immigrazione siano molto spesso caricati di dramma, giustamente, e anche di sensi di colpa, di fatto, degli spettatori. Noi abbiamo voluto approcciare questo film in maniera un po' diversa, fare un film un po' più leggero, per cercare di avvicinare un po' di più il pubblico attraverso più l'empatia che il senso di colpa con il soggetto. Molto spesso se si punta sul senso di colpa, alla fine sì, può essere efficace, ma può creare anche un'ulteriore barriera tra il pubblico e il soggetto dell'immigrazione, no? Comunque, invece noi volevamo trattare l'immigrazione, non abbiamo fatto una storia che parla di un gruppo, la storia parla di un gruppo di amici che diventano amici di un migrante e decidono di aiutarlo, ma decidono di farlo proprio per amicizia e non per beneficenza. Questo era un po' il modo in cui abbiamo voluto affrontarlo. Ciao Camilla! Ciao Elvis! Oye, Repetina! Sei com'è? Grande piacere! Elvis! Mio fratello lui! Fratellastro, che è? Fratellastro, scusami. Ma te invece? Come mai sei ancora qui? Ho provato a passare altre settimane, ma è andata male. Han preso Ruben. Hai sigarette? Hai sigarette? Sì, ho sigarette. Vai, prenditelo tutto. Merci. Andiamo noi. Ma lui che fa qua? Sta aspettando di passare il confine. Ma sono tantissimi come lui. Cercano di andare in Francia. E dov'è il confine? Brando, sta là il confine. Quello là, Brando. E la famosa frontiera di cui parlavi ieri è una merdina così? Sì. E per farlo è servito, per esempio, che il migrante in questione fosse uno figo, cioè uno comunque con cui ci usciresti a bere una birra. Esatto, abbiamo costruito questo personaggio del migrante con cui si crea anche già subito dall'estetica, dal sorriso, l'abbiamo costruito in modo che subito facesse vedere con questi occhiali da sole, queste camicie hawaiane, un altro tipo di spirito che potesse creare nello spettatore comunque immediatamente un rapporto di qualche tipo, un rapporto anche di ammirazione in qualche modo, no? E no, infatti, per ricollegarmi a quello che dicevamo prima, abbiamo deciso di comunque affrontare questo tema anche perché abbiamo vissuto e passato tutte le nostre estati della nostra infanzia in quei luoghi di Ventimiglia, di Mentone, del confine con la Francia e l'Italia, e vedendolo cambiare così tanto in questi ultimi anni, vedendo tutto quello che è successo proprio nei posti dove siamo cresciuti, abbiamo deciso di creare questa storia. Quando non era così difficile come adesso, come situazione. Tra l'altro voi siete un po' apolidi anche dentro, no? Perché avete una radice giapponese nella vostra famiglia che vi ha fatto sentire un pochino dei senza confine, no? Esatto, diciamo che il nostro girovagare un po' per il mondo e avere origini diverse, sì, ci ha permesso di osservare anche un po' dall'esterno, no? Queste dinamiche così chiuse tra un paese e l'altro, e quindi ci ha fatto venire voglia di fare questa storia, perché per noi appunto i confini hanno senso, ma fino a un certo punto, diciamo. I fratelli Miyakawa alla Rosa Purpurea per raccontare Easy Living nei cinema italiani. Adesso la linea torna alla regia. Fra poco ci sarà con noi Pierfrancesco Favino per raccontarci Padre Nostro. La Rosa Purpurea. Bambini, ma voi lo sapete chi è il papà di Valerio? Il papà di Valerio è un eroe. Io sono Chris, sono un amico di Valerio. Non mi importa chi sei. Oggi amici per sempre. You can blame me. Try to shame me. Le sonorità di Padre Nostro, il film di Claudio Noce con Pierfrancesco Favino nelle sale cinematografiche italiane da questo fine settimana, dopo essere passato anche questo in concorso alla Mostra del Cinema di Venezia. Il ritorno di Pierfrancesco Favino sul grande schermo dopo l'annata magica che gli ha regalato i premi più importanti per Amma Met e per Il Traditore, e qui invece siamo in un film un po' più intimo, sicuramente che non ha il respiro storico in generale, anche se il sottofondo storico c'è, è quello degli anni di piombo. E infatti la storia vera, peraltro in parte, del papà di Claudio Noce, del regista, qui interpretato appunto da Pierfrancesco Favino, noto magistrato che subisce un attacco terroristico sotto casa. Il bambino vede questa scena e chiaramente vivrà da quel momento in poi con l'idea che il padre non sia inattaccabile, non sia quella montagna invincibile di cui che ha sempre creduto essere, di cui si è sempre fidato in questa figura che doveva proteggerlo al di là di tutto. E in effetti Alfonso è un padre a suo modo affettivo, a suo modo presente, pur facendo un mestiere che lo porta spesso lontano. Ma questa scena, alla quale peraltro Alfonso sopravvive, è una scena che permea poi il prosieguo dell'infanzia e della prima adolescenza di Valerio, del giovane protagonista, fino a quando non entrerà nella sua vita un ragazzo che sembra materializzarsi quasi dal niente, di poco più grande, una sorta di lucignolo che in qualche modo gli insegna la strada, lo porta un po' a capire che cosa c'è in quel mondo là fuori e come forse superare anche queste paure. Una pagina dura, quella del terrorismo e anche dell'autobiografia di Claudio Noce, che affronta in questo film. Appunto, come dicevo, suo padre Alfonso, vicequestore, fu vittima di un attentato dei nuclei armati proletari nel 76, e un Favino ancora una volta al quale chiaramente non si può dire nulla in termini recitativi, che riesce a entrare in questo padre molto materico, molto, molto denso, con il suo volto segnato, e a dare una presenza, una fisicità al film che fa da contraltare alla gioventù, alla leggiadria quasi in un certo senso, spaventata e a un certo punto mortificata, del giovane protagonista Valerio. Noi siamo in collegamento con Pierfrancesco Favino, che ancora una volta è venuto a trovarci, sebbene al telefono questa volta, qui alla Rosa Purpura. Ciao Pierfrancesco, grazie per essere qui con noi. Partiamo un po' dalle motivazioni, da quello che è stato la genesi di questo film. Qual è la storia, qual è il motivo per cui Claudio Noce ha voluto raccontarlo e per cui tu ti sei innamorato di questo ruolo e di questa pellicola, della quale sei anche coproduttore? Claudio, attraverso questo film, voleva finalmente, credo da figlio, poter dire al papà quello che lui ha vissuto. L'infanzia di noi, di quella generazione, che comunque siamo stati in qualche modo, chi in maniera diretta, chi indiretta, vittime forse della prima paura che noi possiamo aver sentito, cioè è stata la prima mina nei confronti della nostra infanzia, di quel momento che sembrava all'epoca ancora di più essere un momento dorato e privo di difficoltà e di minacce, nel caso specifico in maniera diretta, ma anche nella memoria collettiva di tante della mia generazione. È stato il primo momento in cui si è incrinata questa cosa. Quando Claudia mi ha raccontato per la prima volta, 3 anni e mezzo fa, il trattamento del film, a metà di questo racconto ci siamo scoperti entrambi a iniziare a raccontarci dei nostri padri. E con tutte le persone con cui poi l'ho fatto, cioè con i coproduttori del film insieme a me, Maurizio Piazza, Andrea Calbucci, con Nicola Maccanico di Vision, con Moreno Zani di Tender Capital, tutti quanti, dal racconto iniziavano piano piano a parlarsi dei propri padri, dei propri ricordi, e dei propri ricordi proprio rispetto a quella generazione di uomini, così apparentemente inarrivabile, così difficilmente intercettabile. E quindi ci siamo resi conto immediatamente che, partendo da questa storia, che era una storia privata e particolare, in realtà si andava a toccare una cosa che riguarda tutti, che è quel rapporto misterioso, molto bello e tutto sommato, mi sembra di poter dire, anche raramente risolto, che c'è tra un figlio e un padre. Io ci tengo a dire che il protagonista di questo film è il figlio, che è un bravissimo Mattia Garaci, che è un bambino straordinario che spero abbiate voglia di andare a vedere, ma da figlio io mi sono rivisto molto in lui, e questa è stata la molla, forse è stato anche un modo anche per me in qualche modo di dedicare a mio padre un certo tipo di pensieri piuttosto che di emozioni. La rarità, secondo me, del film è che appunto gli anni di piombo sono una vera e propria ambientazione, non era nostra intenzione raccontare quelle tensioni, ma le tensioni emotive che invece ne sono derivate nell'emotività di tantissime persone, le donne che erano attorno a questi uomini, le famiglie delle persone coinvolte, dall'una come dall'altra parte. E quella generazione oggi è la generazione che ha la mia età, diciamo tra i 45 e i 55 anni, che non è stata parte in causa diretta di quegli eventi e che probabilmente ha maturato quindi anche un altro tipo di visione nei confronti della realtà. Ecco, possiamo dire che questo padre, Alfonso, appunto il padre che tu interpreti, è un padre d'altri tempi, come dicevamo, uomo molto, molto presente, molto fisico, capace anche di tenerezza, ma uno di quegli uomini che ti educavano con uno sguardo, diciamo così. Però c'era, quando doveva esserci c'era, e la presenza, questa presenza la sentivi. Sì, io credo è esattamente quello che volevamo fare, e sono contento che tu abbia visto questo. Erano quegli uomini per cui molto spesso la tenerezza dentro di sé faceva una strana equazione con debolezza, e la debolezza era una cosa che forse all'epoca si pensava non fosse educativa, soprattutto nel rapporto con i figli maschi, e quella tenerezza che noi invece da figli cercavamo e che intravedevamo anche nei loro imbarazzi, anche in questo il ruolo delle donne che erano attorno a loro. Nel film Barbara Ronchi, che è una bravissima attrice, interpreta mia moglie e la madre del bambino, le donne erano quasi a protezione di questa specie di castello che in realtà poi si scopriva molto fragile da qualche parte, però quegli uomini così capaci di saper dettare i ritmi, i tempi, l'obbedienza in quella cappa di fumo che sembrava circondarli, erano esattamente gli uomini che volevamo raccontare, e che mi rendo conto essere un'immagine molto comune nei racconti che anche le persone, come ti dicevo prima, hanno immediatamente voglia di fare. E credo che nella nostra ricerca di quel padre lì ci sia tanto non solo di quello che noi siamo diventati, ma forse è anche molto interessante farne un ragionamento che può riguardare proprio quest'epoca, quella figura di riferimento così forte, così indiscutibilmente forte. Forse è qualcosa di cui da qualche parte sentiamo nostalgia. Il film per questo è ambientato in quegli anni, nonostante sia preso appunto da una storia reale, perché per fare questo percorso da figlio che ti consenta di diventare uomo, di solito, voglio dire, per chi ha la fortuna di farlo, ci vogliono 30 anni. Qui un bambino improvvisamente è costretto a vedere che suo padre non è quella montagna indistruttibile che un bambino ha bisogno di pensare suo padre sia. E quando questa cosa accade, cosa accade nel cuore di un bambino, cosa accade all'anima di un bambino, dove si rifugia, in quale realtà o in quali probabilità si rifugia e il suo mondo di fantasia diventa anche il mondo della sua famiglia oppure no. Insomma, non voglio in questo senso spoilerare il film, però sicuramente l'accento di questo film è messo sull'emozione e sono stato molto felice di vedere a Venezia questa cosa avvenire. Molte persone sono rimaste molto, molto emozionate dal racconto. Ci sono dei momenti in cui devo dire anch'io, pur avendolo fatto, pur essendo coproduttore del film, trovo una forza emotiva piuttosto rara in questo incontro. Perché se è vero che il figlio diventa poi uomo forzatamente attraverso questa vicenda, è anche vero che questo padre così forte ha l'occasione, attraverso questa ferita che pure non vuole mostrare, di riavvicinarsi a se stesso, probabilmente anche al bambino che è stato. Pier Francesco, quanto manca ai figli, ai nostri figli di oggi, il tempo lungo, la dilatazione dei tempi, financo la noia e anche in questo la libertà di potersi esprimere e di potersi creare delle proprie gerarchie? Beh, io penso tanto ed è una cosa a cui da padre ogni tanto cerco di spingere le mie figlie per quanto possibile. Soprattutto c'è una cosa, secondo me, appunto, l'età dell'infanzia o della preadolescenza è l'età in cui tante cose sono possibili e probabili, basta che tu ci creda, basta che siano vere per te. E ho la sensazione che invece noi spingiamo moltissimo verso una concretizzazione fisica, verso la distinzione netta tra ciò che è reale e ciò che non è reale. È vero che viviamo in un mondo di fake news molto spesso, però quelle fake news sono talmente ben nascoste che sembrano vere. Altra cosa è che invece tu sei consapevole del fatto che stai rendendo vero ciò che non lo è, e magari questa cosa la fai per gioco oppure per salvare una parte di te che altrimenti avrebbe un dolore eccessivo da dover manipolare o con cui dover fare i conti. E questo invece è il caso di noi bambini degli anni 70, però credo sia il caso, e lo vedo appunto anche da padre con le mie figlie, anche cioè di qualsiasi bambino. Penso che siano delle fasi evolutive molto comuni e antiche come l'uomo o la donna, per cui io penso che sia necessario, penso anche che il cinema in questo caso sia uno dei luoghi che ce lo consente, e visto che con le dovute cautele adesso possiamo tornarci, mi auguro che questo sia un film che questo desiderio lo possa far esaudire allo spettatore. E allora grazie a Pier Francesco Favino per essere stato con noi a raccontarci Padre Nostro nei cinema italiani. Ciao. Grazie Franco. Pier Francesco Favino alla Rosa Purpurea, Padre Nostro. Noi giochiamo insieme invece con la seconda traccia del film misterioso di oggi. Rupert deve capire cosa significa una mia sconfitta. Gretchen Carlson può uccidere Fox News. Questa è una battaglia per il vostro lavoro, perché io affondo con voi. E chi è che affonda con queste tre donne, queste tre bionde, abbiamo detto, del nostro cinema contemporaneo, anche se di tre generazioni diverse? Se avete indovinato di che film si tratta, alla Rosa Purpurea @radio24.it, con il titolo del film e il vostro indirizzo, ci sono due Blu-ray che vi aspettano. E adesso linea alla regia, fra poco torniamo insieme, c'è un altro film sul grande schermo di cui parlare, si intitola Il giorno sbagliato con Russell Crowe, ritroveremo Boris Sollazzo fra poco. Sai che io ancora esattamente non ho capito. Che cosa, Leonardo, non hai ancora capito? Non ho esattamente capito di cosa parliamo noi qui a Uno, Nessuno e 100 Milan. Parliamo di attualità, ma a modo nostro, dando spazio a tutte le opinioni. Non è vero, diamo spazio solo alle opinioni che ci fanno comodo. Questa è una tua opinione. Sì, certo. Io non la condivido, ma te l'ho fatta dire, ti sei smentito da solo. Sei scaltro. Ti ascolto perché sei scaltro. A che ora cominci? Tutti i giorni, dal lunedì al venerdì, alle 9 fino alle 11. Uno, nessuno, 100 Milan. Uno, nessuno, nessuno, 100 Milan. Sei scaltro. Quasi ti ascolto. Essere, non essere. Qui sta il problema. Cosa andare a vedere nel weekend? Cosa arriva nella nostra città? No, per l'idea dell'ave! Non sarà mai che i miei figli. Io lascio l'oltraggio dei miei nemici. Quali sono le prime più importanti? Siamo qua in cerca d'un autore. Cartellone, il rotocalco settimanale sul teatro, seleziona gli spettacoli migliori con interviste ad attori e registi. Sono Elisabetta Fiorito e vi aspetto ogni sabato alle 15.15 su Radio 24, oppure mi potete riascoltare su podcast, una tournée radiofonica per sognare in tutti i teatri d'Italia. La rosa purpurea. Parti, bello! Vai! Vivo un periodo complicato. Se mi chiede scusa, azzeriamo tutto. Guardi che io non ho niente di cui scusarmi, ha capito? Lei non sa cosa sia una brutta giornata. Ma che fa? Ora lo capirà. E beh, avete capito che basta poco per scatenare la violenza, basta una lite al semaforo, basta quello che succede a questa giovane madre impegnata in una giornata già non facilissima per come è nata, uno sguardo sbagliato se di fianco hai uno con un SUV da 3 tonnellate che ha la faccia e il volto arcigno di Russell Crowe. Stiamo parlando di Il giorno sbagliato, il film che arriva nelle sale in questo fine settimana, che è partito subito al comando di classifiche che non sono paragonabili a quelle degli anni scorsi ancora, ma insomma vediamo cosa farà in questo weekend. Un film che ricorda gli inseguimenti, quella sorta di asfissia ossessiva che vedevamo per esempio in Duel di Spielberg, tanto per citare un celebre capostipite, una storia appunto di una donna, un divorzio difficile, un bambino da portare a scuola, sempre in lotta con le aree, un licenziamento che arriva proprio quella mattina, e in questa giornata che definiremmo di M se fossimo educati, cosa succede? Che di fianco ti spunta davanti ti spunta questo SUV che al verde non scatta immediatamente, la ragazza ha diciamo fa l'errore quasi letale di suonare il clacson per dire svegliati e vai, e da quel momento la ragazza diventa la vittima designata di quel signore, appunto Russell Crowe, che guidava quel bestione che non è partito al semaforo. Storia semplice, con una prima mezz'ora, 40 minuti di grande tensione, di grande costruzione nel genere, ovviamente, perché è un film, è una sorta di B-movie che una volta magari sarebbe uscito solamente in video, però di quelli che ti divertono, che ti fanno fare serata, poi a un certo punto sicuramente sbraca, però insomma tutto sommato, Boris, mi sembra che gli elementi, anche una vena sull'horror quotidiano, su come siamo diventati cattivi, violenti anche nella nostra vita quotidiana, tutto sommato ci sia. Ma io questi film li chiamo delle partite a squash, quando ti viene quella follia e stai giocando e tiri la palla sempre più forte e c'è la coazione a ripetere, a continuare a tirarla ancora più forte e non smettere mai, o quando ci si allena anche da soli. Perché dico questo? Perché Un giorno sbagliato è un film che a livello di linguaggio cinematografico è binario, totalmente binario, è azione e reazione continuamente, a un certo punto è solo reazione, è un ottimo horror d'ambiente di città, un horror cittadino che continua ad alzare l'asticella della violenza solo perché lo richiede un soggetto che tra l'altro non è neanche particolarmente originale, perché tu hai citato Duel, che però aveva il fascino dell'indefinitezza del cattivo. Qui invece il cattivo è definito ancora prima, lo spettatore lo viene a conoscere prima della vittima stessa e sa già quanto è pericoloso. In questo assomiglia più forse al Cemento armato di Marco Martani, con quel Faletti cinico e che non si ferma davanti a nulla, ma probabilmente quello che gli somiglia di più è quel giorno di ordinaria follia, che però aveva in sé una rabbia sociale, una esasperazione metropolitana, che qui invece è causata dalle frustrazioni personali di Russell Crowe. Ovviamente questi film quando funzionano? Quando c'è un attore di grandissimo carisma e in particolare la fisicità di Russell Crowe, che potrebbe essere penalizzante per tanti altri ruoli, invece qui diventa qualcosa in più, e un'intuizione, una piccola intuizione rispetto a tutti i film citati, per cui la teoria del giorno sbagliato, cioè tutti possiamo diventare dei mostri se veniamo presi nel giorno sbagliato e reagiamo nel giorno sbagliato, è applicabile sia alla vittima che al carnefice, perché nel momento in cui la vittima suona ed è scortese e l'uomo pretende le scuse, in qualche modo cerca una valvola di uscita, un exit strategy da quello che sa che cosa farà, E lei gli risponde in maniera arrogante: anche per lei è un giorno sbagliato, l'hai raccontato benissimo te, anche lei ha bisogno di scaricare le frustrazioni su qualcun altro, lo fa solo verbalmente, non sa che cosa succederà, ma questa doppia teoria del giorno sbagliato finirà per tirare in mezzo una spirale letale, una spirale di dolore, di ferocia, di cattiveria, e da quel momento in poi, soprattutto come dici tu, nella prima metà del film, parte una caccia all'uomo, anzi scusate, alla donna, che è girata da Borti con grande maestria, con grande bravura, con il trucco e l'intelligenza dell'essenzialità, non esagera, anche se la violenza qui è tutta esposta, a differenza di tanti altri film, è molto similmente a Un giorno di ordinaria follia, e quella violenza esposta però ha anche una sua ruvidità, non va sopra le righe se non in ciò che accade, ma non in ciò che mostra. Ecco perché poi alla fine Un giorno sbagliato probabilmente ha trovato il successo nei primi giorni, ed è un film che nel suo genere, pur non essendo film d'autore, pur non essendo un capolavoro, risulta efficace, perché ha una profonda onestà intellettuale, emotiva ed estetica che tiene fino alla fine, e c'è un grande Russell Crowe, perché come nel caso di Waiting for the Barbarians, effettivamente quando metti degli attori a fare ciò che sanno fare meglio e loro lo fanno al meglio, a volte basta, come in una partita di calcio, magari non serve sempre il grande allenatore, ma basta il grande campione. E questo è Il giorno sbagliato, allora al cinema con Russell Crowe. Grazie Boris Sollazzo, ci sentiamo la prossima settimana. Alla prossima settimana e buon cinema. E siamo arrivati quasi in coda alla nostra trasmissione, siamo veramente di corsa oggi e non ci staranno le segnalazioni dai palinsesti di Fil TV, ma la segnalazione invece è la recensione del nostro DVD Game della scorsa settimana, quella sì, abbiamo giocato con questo film. Va bene, adesso mi muovi le gambe come quando vai sulla mountain bike. Bravo, solo adesso, solo adesso. Quel solo che diventa tolo e che incredibilmente, purpura, mi avete deluso, ha indovinato solo un nostro ascoltatore. E non so come mai, come sia successo, ma il vincitore è Emanuele Iengo di Casoria, provincia di Napoli, è lui che riceverà il Blu-ray di Tolo che ci facciamo raccontare da Giulio San Giorgio, direttore di Fil TV. Ciao Giulio. Ciao Franco, un saluto ai radioascoltatori. Sì, possiamo dire che è un Pinocchio più vivo di quello forse algido di Matteo Garrone, un bugiardello impenitente che crede di aver trovato il paese dei balocchi nell'Africa del neocolonialismo da villaggio vacanze, ma finisce migrante pallido al contrario nella pancia di una chiatta balena respinta da governi ottusamente direi attuali. L'ultima beffa del film è un cartoon alla I Tre Caballeros con Checco italiano pessimo alla Sordi, culmine di una vocazione alla digressione musical che è una delle tante troppe forse anime del film. Checco è sicuramente la maschera che fa di se stessa il monumento vivente della banalità e della stupidità degli italiani, assume su di sé tutta la superficialità del nostro dibattito sull'immigrazione e ce la sbatte lì ridendoci su. Il Blu-ray è condito da backstage e videoclip. Ciao Franco e alla prossima settimana con le nostre segnalazioni. Grazie Giulio, ci sentiamo fra 7 giorni, noi siamo giunti alla fine della nostra trasmissione, giusto il tempo di svelarvi il nostro DVD Game di oggi, il film misterioso con il quale abbiamo giocato, si trattava di Bombshell con Nicole Kidman, Charlize Theron e Margot Robbie. La prossima settimana i vincitori, noi ci risentiamo alle 18 qui alla Rosa Purpurea. E nel frattempo andate al cinema. Un saluto da Franco D'Assisti. Per le aziende professionisti il cloud significa potenza, risparmio e scalabilità. È la sicurezza di un data center sempre con te. Sviluppa i tuoi progetti con le migliori soluzioni cloud di Aruba.it.